far la gara di tuffi. Nell'autunno stanco non siamo forse gli aghi pieni dei pini, che solitari stanno immobili. Cappello avrò, non voglio far la fine dei salici. Mi sono perso un attimo, o forse è stato l'attimo a rapirmi. Non dare retta agli apostoli, sono i profeti. Come il